Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Sì, non siamo riusciti ad esaurire il programma, ma quod differtur non offertur, si diceva una volta. Ciò che viene differito non viene eliminato. Vi ringraziamo tutti per averci ascoltato fin qui. Ringraziamo Luca Giulio che è stato alla console e con la speranza di una maggiore puntualità a domenica prossima. A domenica, buona giornata a tutti. Thank you.